Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 22 ottobre, bentornati di nuovo a tutte e tutti, sempre su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Io sono Caterina e qui con me c'è Antonella. Ciao Antonella. Ciao Caterina e ben ritrovati. E come sempre siamo alla conduzione di questo programma che va in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. E la notizia di oggi è una notizia internazionale, la leggo da Il Fatto Quotidiano, Stati Uniti, Rikers Island, la prigione lager di New York che i Dem tentano di chiudere. È una notizia interessante questa che sta facendo molto scalpore anche nella stampa italiana, perché c'è un angolo di inferno, per così dire, sulla terra che si chiama Rikers Island, o più semplicemente Rikers, ed è una piccola isola compresa nel territorio della città di New York, a un paio di chilometri in linea d'aria da Manhattan, sull'East River tra il Queens e il Bronx, ed è sede di una delle istituzioni penitenziarie e delle istituzioni mentali più grandi del mondo. Infatti è stata descritta come la prigione più famosa di New York. Pensate che ospita circa 6.000 detenuti, eppur potendone accettare fino a 7.300, il continuo assenteismo di chi ci lavora, degli agenti, insomma, rende molto dura la gestione dei prigionieri. Per lo più i prigionieri sono sospettati che non possono permettersi la cauzione e sono in attesa di giudizio, mentre in piccola parte ci sono anche persone che devono scontare condanne brevi. Ma perché angolo di inferno? Perché è una prigione dove da anni vengono denunciate violenze e trattamenti disumani e dove la situazione negli ultimi mesi pare essere ulteriormente degenerata. Ci sono detenuti, pensate, che lamentano la mancanza di accesso ai diritti fondamentali come il cibo, l'acqua, le cure e anche vivono tra la sporcizia e le proprie feci. Ed è inquietante anche il numero dei decessi collegabili alle condizioni di vita in prigione. Solo quest'anno sono state 12 le persone decedute, della metà dei quali sono suicidi. Caterina, come si sta occupando della questione la politica e le istituzioni americane? Verso la prima settimana di ottobre, infatti, Antonella è stato proprio il sindaco Bill de Blasio a recarsi per la prima volta durante il suo secondo mandato, quindi insomma già la dice lunga, a visitare la struttura. De Blasio è tra coloro che promuovono la chiusura della struttura già prevista per il 2027, dopo 95 anni dalla sua apertura, ma a 4 mesi dalla fine del suo mandato, per De Blasio quella di Rikers Island forse non è la priorità. E la visita di 2 ore del sindaco, senza incontrare i detenuti, tra l'altro, è stata motivata più che altro dal grido di allarme dei deputati democratici, tra cui Alexandria Ocasio-Cortez, che dopo un tour all'interno del complesso ha chiesto l'intervento delle forze federali per far fronte a quella che definiscono una crisi umanitaria e sanitaria. Pensate che qui le infezioni da Covid-19 sono il doppio rispetto alla media della città. E ovviamente questa situazione New York non è in grado di gestirla. Uno dei deputati che ha visitato la prigione è anche Ricci Torres ed è il primo firmatario di una lettera di denuncia, poi sottoscritta da tutta la delegazione democratica, in cui si chiede di aprire subito un'inchiesta sulle condizioni di detenzione dei prigionieri nell'istituto. Senti, quali sono state le conseguenze politiche? Ecco, questa mossa dei Dem ha costretto il primo cittadino De Blasio sulla difensiva e lui si è affrettato a dichiarare che la città ha da poco messo in atto una serie di misure che hanno già avuto un impatto positivo sulla qualità della prigione e tra queste la creazione, guarda caso, di nuove strutture per far fronte all'arrivo di nuovi detenuti e l'eliminazione del triplo turno per il personale del carcere. Ma c'è di più, perché il candidato democratico che probabilmente sostituirà De Blasio dopo le elezioni del 2 novembre, Eric Adams, ha visitato Rikers Island e a inizio settembre si è già detto a favore della sua chiusura, oltre a chiarire che non approva il piano di De Blasio della costruzione di nuove strutture di detenzione in altre località, proponendo invece un progetto per la costruzione di un'unità dedicata unicamente ai prigionieri con problemi mentali e abuso di sostanze stupefacenti. Sul versante opposto, naturalmente, si è subito schierato il suo avversario, il repubblicano Curtis Liwa, che si oppone alla chiusura della prigione e vuole anzi moltiplicare le strutture detentive all'interno dell'isola. Comunque sia, chiunque si troverà a governare questa città non potrà fare a meno di non fare i conti con questo vergognoso angolo di inferno, come cita l'articolo, a due passi da uno dei centri più famosi e ammirati del mondo, che è proprio New York. Caterina, c'è anche una curiosità legata a questo posto, vero? Sì, l'ho tenuta per ultima e si tratta di un fatto storico che ha visto per la prima volta i detenuti di quest'isola trattati dall'opinione pubblica come eroi. È stato nel 1957 quando un aereo cadde e si schiantò sull'isola di Rikers Island e gli unici soccorritori, pensate voi, sono stati i detenuti a salvare diverse persone. E per questo motivo nel 1957 la città di New York decise di premiarli e molti vennero liberati con pena commutata, mentre altri ebbero la pena ridotta. E a loro e a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento dalle carceri dedico una canzone famosissima nelle carceri statunitensi con Bob Dylan, The Band, Folsom Prison Blues, che è una canzone, come sapete, di Johnny Cash. Ci rivediamo tra pochissimo. Rieccovi, bentornati, sempre dopo la pausa musicale. Liberi dentro il venerdì è la giornata animalesca e con Antonella parliamo di polipo. Sì, Caterina, parliamo di polpo anche perché dopo aver visto il documentario di cui vi avevo già parlato precedentemente, Il mio amico in fondo al mare, io mi sono innamorata del polpo. E dei polpi sappiamo che usano i tentacoli come apri bottiglie, per esempio, questo lo sapevi? Cioè riescono anche a svitare il tappo. E sai che riciclano i gusci di cocco per farne i rifugi? Che risolvono situazioni di conflitto con il linguaggio del corpo? Insomma, secondo me sono dei fenomeni. Messi a confronto con gli altri animali marini, vantano un'intelligenza veramente superiore e sorprendente. Quindi mi hai messo la pulce nell'orecchio. Da cosa deriva questa intelligenza? Come mai sono così più sviluppati rispetto agli altri animali? Allora, ti invito a leggere un bellissimo articolo di Ed Yong sull'Atlantic in cui parla appunto del polpo e dice che il polpo è decisamente atipico anche per un animale intelligente, perché nel regno animale le teste pensanti, che insomma possono essere le grandi scimmie, gli elefanti, i delfini, le balene, i pappagalli per dirne alcuni, condividono due peculiarità indipendentemente dalla famiglia di appartenenza. La prima è che vivono in gruppo. E attraverso il gruppo possono gestire una fitta rete di relazioni che favorisce ovviamente la trasmissione delle conoscenze e anche lo sviluppo cerebrale. E poi vivono a lungo, sia perché un grosso cervello ha bisogno di più tempo per svilupparsi, sia perché l'intelligenza contribuisce a proteggerli dai pericoli. Mentre il polpo è totalmente anomalo perché è un animale piuttosto solitario, che non disdegna di mangiare i suoi simili se è il caso, e anche quando nuota in gruppo è refrattario a stringere legami, infatti spesso si trovano da soli i polpi. E tra l'altro ha anche vita molto breve, pensate che non vive più di 2 anni di solito, si sviluppa velocemente e muore in genere molto presto, soprattutto in seguito appunto a un evento riproduttivo. Una caratteristica del polpo sono anche questi lunghi tentacoli, a cosa servono? Non a caso si chiama octopus, quindi ha 8 tentacoli. Guarda, noi, soprattutto io che vengo dal sud, gesticolo facilmente solo con 2 mani. Immaginati un polpo con 8 tentacoli, che cosa può fare? Infatti li usa i tentacoli, e oltre ad usare la postura e i colori per comunicare con gli altri polpi in modo estremamente articolato ed espressivo, soprattutto nelle situazioni più tese. Lo provano 53 ore di filmato di un gruppo di polpi australiani ripresi nei bassi fondali della Jervis Bay, nel sud-est dell'Australia. E poi, insomma, noi abbiamo sempre creduto che i polpi siano soliti cambiare il colore per una tattica di camuffamento. È per quel motivo, ma è anche per un preciso significato sociale, cioè praticamente questo animale è considerato solitario e con scarse interazioni, però non è sempre così e quando deve interagire, interagisce appunto modificando il proprio colore. I video acquisiti da David Shield dell'Alaska Pacific University mostrano i cefalopodi anticipare le situazioni di conflitto con variazioni di colore e strane posizioni. C'è una foto molto famosa di un polpo che ha intenzione di attaccare una videocamera e assume un atteggiamento da Nosferatu, cioè diventa sempre più scuro, allarga i tentacoli per ampliare il suo mantello e si porta più in alto rispetto al rivale. E quindi è veramente spaventoso, assume un atteggiamento quasi cattivo. Ed è il loro modo per sembrare più grandi e mantenere una posizione dominante. Gli esemplari che vogliono appianare le cose ed evitare il conflitto invece assumono un colore più tenue, quasi pallido, al contrario dei due polpi che avranno più probabilità di azzuffarsi se si scuriscono. E questi messaggi non verbali sembrano funzionare, Caterina. Nonostante l'alto numero di polipi della baia, i conflitti veri e propri sono molto pochi. Il gesto più comune nei filmati, che poi in realtà non è che si sia del tutto interpretato, sembra più essere più accomodante. Spesso, infatti, sono stati registrati polpi nascosti in una tana che stendono un tentacolo verso l'esterno e dall'altra parte toccano un altro polpo. E sembra essere proprio un gesto quasi, diciamo, di amicizia, oppure anche proprio di territorio, di spazio. Per quanto riguarda i piccoli, il video realizzato dai biologi marini del Virginia Aquarium mostra un baby cefalopode uscire dal proprio uovo, disposto accanto ai fratellini in una struttura che ricorda un fiore. E il piccolo nasce trasparente, poi pian piano, anzi nel giro veramente di poco tempo, in realtà assume una colorazione marrone, mentre dispiega questi mini tentacoli e inizia a nuotare. Questo sicuramente perché, come ti dicevo prima, dopo il parto la mamma praticamente muore e quindi hanno pensato che il cambio di tonalità sia dovuta sia allo stress della nascita ma anche a un istinto al mimetismo necessario per la sopravvivenza. E come ti stavo dicendo, le femmine di questo polpo possono deporre fino a 200.000 uova che impiegano circa 60 giorni per schiudersi e i baby polpi alla nascita sono lunghi 15 mm e completamente autonomi, proprio perché, come ti dicevo, entrambi i genitori in genere sono morti al momento della schiusa e pensa che dedicano tutte le energie alla, appunto alla gestazione e anche al parto e alla nascita i mini molluschi sanno già muoversi e schizzare inchiostro ed è veramente commovente. Infatti invito tutti a guardarlo, questo documentario che si chiama Il mio amico in fondo al mare, perché in effetti si può vedere quasi tutto del ciclo vitale del polpo, osservarne l'intelligenza e anche in un certo senso l'amicizia che dimostra al documentarista. Insomma, una storia d'amore a tutti gli effetti, sempre di amore animalesco in verità. E rimaniamo ancora un pochino con il nostro Goran Bregovic con una meravigliosa interpretazione di Bella Ciao. Ascoltiamolo e buon fine settimana. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro Edu Radio e l'ospite di oggi, ormai lo conoscete, è consuetudinario, è Paolo Aleotti. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, dopo averti seguito Paolo oltreoceano, in Asia, in Medio Oriente, poi in Italia, oggi io vorrei parlare con te, che scusa, ti ripresento, giornalista di Teleradio Reporter a Milano e anche per tanti anni giornalista per la RAI. Vorrei parlare con te oggi di una cosa che so che ti rende molto fiero e orgoglioso, e mi riferisco proprio a Teleradio Reporter, perché io ti ho sempre presentato come giornalista di Teleradio Reporter, ma oggi ci racconti che cos'è questa esperienza. Dunque sì, stavo pensando così di lasciare la RAI quando mi è arrivata una telefonata di Antigone, che è un'associazione culturale che si occupa appunto della cultura in carcere, per offrirmi questa opportunità di insegnare ai detenuti del carcere di Bollate a fare documentari, che è una cosa che io amo molto, sia radio che televisivi. Francamente all'inizio sono rimasto un po' così, perplesso, incerto, perché io non ho mai fatto l'insegnante, in fondo. E quindi ho detto, mi prendo un periodo di prova. Il periodo di prova si è trasformato nel fatto che appunto da 7 anni e poco più non mi sono mai più mosso da Bollate, anzi ho fatto io le carte false per tornarci, non più solo con Antigone, ma come volontario, perché ho trovato un'esperienza veramente incredibile, molto interessante, bella. Poi tu ne sai qualcosa, la conosci, insomma, no? Fare volontari in carcere significa tante cose bellissime. In questo caso la cosa bella è anche quella di essere in un carcere abbastanza particolare, Bollate, che è un carcere che applica quello che secondo me dovrebbero applicare tante carceri italiane, la legge italiana, che dice che tutte le celle, le porte delle celle possono essere aperte dalla mattina alla sera. In più, perché in qualche carcere italiano c'è questo, in più lì a Bollate ci sono tante cose che possono fare i detenuti e quindi non se ne stanno con le mani. Un'altra cosa che c'era fino a poco tempo fa, adesso rischia di perdersi un po', un patto che i detenuti quando entrano a Bollate firmano per prendersi la responsabilità della loro eventuale, come dire, ricrescita, rinascita. Questo è bellissimo. E anche molto faticoso, perché a volte, e non solo essendo detenuti, è più comodo mettersi da una parte e dire colpa di tutti, della società, della mia famiglia, per quello che mi capita. E invece, ecco lì, ho scoperto tante persone veramente formidabili, formidabili. Esatto, tu dicevi prima che un po' tutte e due sappiamo cosa significa entrare in carcere, insegnare, rapportarsi con i detenuti, ed è effettivamente un'esperienza bellissima. Io ti chiedo quale chiave tu usi, diciamo metaforicamente, perché una persona è un po' un mondo nuovo a cui approcciarsi, a cui accostarsi, quale chiave tu utilizzi per approcciarti alle persone detenute? La chiave è una chiave che veramente ho sperimentato ancora di più in carcere, ma insomma mi appartiene, quella dell'ascolto. Quindi mi È tutto, io ovunque arrivi faccio l'uomo di marmo, sto lì che ascolto, sono in ascolto, capisco, mi impregno delle cose. B, mi faccio riconoscere, cioè cerco un rapporto di riconoscimento con l'altro, che significa che se io voglio che l'altro mi si sveli, che mi guardi negli occhi non chiudendo gli occhi ma lasciandomi entrare dentro di lui o di lei, beh, io devo fare la stessa cosa. Quindi io mi scopro. E quindi mi fido, come ho imparato nei miei 10 anni di America, fino a prova contraria, mi metto in gioco totalmente. Ci sono dei rischi, eppure fino a oggi dico questo metodo, diciamo così, ha pagato, perché riconoscersi significa entrare in un rapporto di fiducia, significa che dall'altra parte non c'è una persona che mi dice solo quello che lui pensa che io vorrei sentirmi dire, ma che mi dice la verità, la sua verità, perché poi ognuno ha la propria. Paolo, ritorniamo su questo tra pochissimo. Come sai, c'è una pausa musicale. Cosa lanciamo? Direi, visto che stiamo parlando di carcere, una delle canzoni, dei pezzi, diciamo così, più conosciuti che parlino di carcere è Mamì, cantato da Ornella Vanoni, ma scritto da Giorgio Streller dopo una sua esperienza, diciamo così, proprio che riguarda l'essere partigiani in carcere, che è una cosa totalmente diversa. Mamì è una canzone bellissima che ha cantato Ornella Vanoni, ha cantato anche Iannacci, ma io direi di ascoltarla da Vanoni con un pezzo eccezionale. Me manca ta in una imbuscada, pugni e pesciado, era fusilada. Mami, mami, mami, 40 di 40 no, a San di Tura, ciapa e bot, dormite can, tiende. Il commissario ieri mattina e il mamandaccia mali per lì. Noi siamo qui, non senti alcuno. E il mi diceva sto brutterò. E il mi diceva mi vuoi gumbare, non li pigliassi senza di te. Ma si parlasse, io firmo qua. E rieccoci, bentornati sulle note di Ornella Vanoni, Mamì, cantata da lei. E Paolo, ritorniamo a parlare sempre di Teleradio Reporter, l'esperienza partita nel 2014 al carcere Bollate di Milano. Tu so che lavori sia nella sezione maschile del carcere che in quella femminile. Ci sono differenze, immagino. Differenze enormi, grandissime, innanzitutto numeriche, quantitative. Gli uomini a Bollate sono 1100, le donne sono 100-120 al massimo. Questo peraltro rispecchia le carceri italiane, le carceri mondiali, insomma le donne nelle carceri sono appena il 5-6-7 massimo per cento, perché un po' delinquono meno, perché per tanti fattori, diciamo così. E questo però significa che il carcere di Bollate è studiato, come le carceri del mondo, come un carcere maschile. E per forza, se tu devi rendere contente 1100 persone, rischi di scontentare un po' le 100 che restano. Purtroppo, dunque, anche in carcere si riperpetua così questa discriminazione nei confronti delle donne che noi oggi ci viviamo ogni giorno, anche a volte sulla nostra testa, perché noi maschi ci dite che vi trattiamo male, e avete ragione fondamentalmente, in questo caso sono delle ragioni anche oggettive. L'altra cosa che posso dirti è che essendo a contatto con la popolazione maschile e quella femminile, mentre la popolazione maschile è più pronta a mettersi in gioco, ma in maniera un po' superficiale, come forse siamo appunto noi maschi, le donne sono molto meno pronte, perché sono molto più dentro il carcere, lo rifiutano nel profondo, perché si tengono più da vicino gli affetti che lasciano fuori, i figli, i mariti, gli amanti, la famiglia e tutto il resto, e però poi quando veramente decidono di mettersi in gioco hanno una potenza di tiro che francamente mi fa tremare la voce. Insomma, le cose più belle mi sono venute dalla popolazione femminile. i momenti più goliardici, naturalmente, senza essere arrivati alla partita di calcio, ma insomma con la popolazione maschile. Quindi diciamo che nonostante comunque in particolare poi tutte le carceri abbiano questa impostazione un po' maschile, quindi anche a Bollate c'è questa particolarità, tuttavia cosa mi dici del modello Bollate? Dai numeri e da quello che un po' si sente sembra una situazione estremamente positiva che andrebbe applicata anche ad altre carceri, è così? Ah. Assolutamente così. Ti dicevo forse prima che c'è un patto che i detenuti che entrano a Bollate dovevano firmare entrando, che li connetteva ad una autoresponsabilità. Oggi questo patto sta venendo un po' meno, causa Covid, causa sovraffollamenti, causa il fatto che prima si sceglievano un po' le persone che andavano a Bollate, cioè le persone che decidevano davvero di firmare quel patto. Erano persone che magari hanno ucciso, che magari hanno sbagliato tantissimo, ma avevano desiderio un po' di ricominciare. Adesso la cosa è diventata un po' meno selettiva, essendo meno selettiva e quindi in fondo più democratica, però comporta alcuni problemi che in questi giorni, io sono rientrata a Bollate proprio in questi giorni, dopo tanto tempo che non entravo, ho avuto modo proprio di confrontare con detenuti e detenute, e ci sono l'un contro l'altro armate due sezioni, una di qua e una di là, sia al maschile che al femminile, quelli che dicono che il mito Bollate sta finendo, quelli che dicono che invece Bollate ha seminato così tanto che invece resta lo zoccolo duro di Bollate, che forse in questo momento, diventando Bollate un po' più uguale alle altre carceri, forse le altre carceri potranno avvicinarsi meglio al modello Bollate, che io, come dire, suggerisco e auspico per tutti. Paolo, ti ringrazio. Invito i nostri teleradioascoltatori a scriverci redazionelibertadidentro@gmail.com e se hanno delle domande per te arriveranno al destinatario. Bene, grazie allora e buona giornata a tutti. Arrivederci. Ciao Paolo. From the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. Ed è giunto il momento anche oggi di salutarci, dopo aver ascoltato sempre il nostro ospite Paolo Aleotti. Vi ricordiamo di iscriverci, redazionelibertadidentro@gmail.com, e a seguire Islam, religione e civiltà sul tema della fraternità, e ancora dopo ginnastica da camera, una puntata sempre in replica. E poi ci sono le puntate del sabato, abbiamo le parole chiave, la rubrica a cura dell'arcivescovo Zuppi di Bologna, questa volta sulla parola carità. Poi c'è fare università in carcere, fare università in carcere, dove la professoressa Alessandra Giovagnoli intervista alcune neolaureate di giurisprudenza, volontarie di Liberi di Studiare, e poi a seguire la rubrica Parliamo di Buddismo, dove la monaca Tashi parla della sofferenza pervasiva. Per finire, Cefal per Futuro Fuori presenta Il mestiere dell'estetista. La domenica il Teatro del Pratello presenta Prove a distanza in replica, e poi abbiamo Diritti al punto, che tratterà il tema del bilanciamento dei diritti. Buon fine settimana a tutte e tutti, e noi con i buongiorno di Eduradio ci rivediamo lunedì prossimo. Grazie e un saluto da me, Antonella, e da Enea Flacco. Grazie a tutti. Liberi dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.